fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Off Topic, Radio 24, Il Sole 24 Ore, bentornati sulle frequenze di Radio 24, appunto in sulle frequenze di Radio 24. Bellissimo, non si diceva, forse dagli anni 80. È bello della cosa. Radio vera, è non della web radio. Negli anni 80. Le frequenze, le onde nell'aria. Ma perché oggi, appunto, visto che fate tanto, come si dice in gergo, gli intanto sboroni. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buongiorno, buonasera. Buonasera. Sì. Intanto che fate gli sboroni è perché voi credete veramente di farlo meglio di me. No, lo dico per forza. Giù la cresta, perché il tema di oggi, luogo comune di oggi, è lo facevo meglio io. Beh, di sicuro siamo più autoironici di te, questo che te la sei già presa. Questo è sicuro. Lo facevo meglio io, ovvero quando attitudine puramente italiana, si vede qualcuno fare qualcosa e dice vabbè, ma lo faccio io meglio. Anche quando i tedeschi ci guardano dall'alto verso il basso, che dicono che lo fanno meglio. Ma te inchiodi così le assi, ma sei sicuro? Esatto. Ma che ti prendi il dito che così? Che è un po' la filosofia dell'umarelle, no? Che è quello del signor anziano che guarda il cantiere e sta lì a dire all'operaio ciappa su, torna. Tra l'altro ai miei tempi si faceva meglio, se si faceva meglio. Effettivamente, questo è un grande quesito. L'umarell guarda il cantiere perché non ha nulla da fare o perché, come dire, ribolle di rabbia? Spinto da quella ma dai, ma cavolo, ma non fallo, vedi che ma lo faccio meglio io. Allora, se siete dell'idea di Alessandro Longoni o volete rispondere a questa domanda, potete farlo scrivendoci a offtopic@radio24.it oppure interagendo sulla pagina Facebook offtopic-radio24. Allora, ragazzi, voi cosa fate meglio? Ma oddio, mamma mia. Cosa. Sui due piedi nulla. Vi faccio un esempio. Io ad esempio faccio questa rivelazione. Quando sono al bar e vedo un barista che è un po' impacciato, che ci mette tanto a prendere l'ordine, il cappuccino, soprattutto a Milano, dove è la città della velocità, che bisogna andare veloce, io vado ai matti e mi verrebbe voglia di gli senti, lo faccio io, perché io quel mestiere un po' l'ho fatto quando ero ragazzo. Cioè mi metto il grembiule e vado dietro. Sì, dai, ci metto tre secondi. È una bella provocazione, però ti dico, e poi se sali sopra lì sul palco del bar e fai schifo, come la mettiamo? E poi mi fanno il bucio. Perché secondo me, infatti, fallo tu allora. Infatti gli italiani sono bravi tanto sulla carta a dire lo facevo meglio io, poi alla fine mettendoli dietro si ingegnano in qualche modo, ma non è che lo fanno molto meglio di altri. Poi voglio vederti a farlo con la fogliolina, il cappuccino, o col cuoricino. Ti voglio vedere. Allora cosa fai? Sali a fare il brodo, sali. Tu da attore, quando vai a vedere gli spettacoli degli altri, di la verità, lo dice sempre, che guardi l'attore e dice ma lo faccio meglio io. Questo è un cane. No, io non è che lo faccio meglio io, non dico lo faccio meglio io, apro un'analisi, diventa Carmelo Bene. Un'analisi, va bene, dai. Comunque, per partire oggi con Off Topic, come sapete abbiamo sempre tre ospiti, uno pro, uno contro e poi un giudice finale, vorrei introdurlo con una clip molto molto politicamente scorretta. Comunque Serena, ti volevo dire che io ho continuato quella ricerca delle donne nella storia che ci insegnano un sacco di cose e ti ho portato dei nuovi esempi. Bravissima, perché la ragazza stando qui si è molto molto acculturata e questa ricerca mi piace assai. Prego, bene, Martina. Cominciamo dalla prima. Sì. Margherita Hack. Brava, che meraviglia, scienziata, astrofisica, divulgatrice italiana. Esatto, Margherita Hack ci insegna che se vuoi avere successo nella vita devi avere le tette grosse. Ma no, ma non è, scusi, ma non è così. Non è certo diventata famosa per quello. Scusi, ma dove l'ha fatta sta ricerca? Su internet, ovvio. Comunque ce le aveva grosse, quindi ho ragione. Ma lascia stare, andiamo avanti. Ciao a tutti, io sono Martina Dell'Ombra. In quanto rappresentante del popolo italiano, ho deciso di rispondere a nome di tutti quanti alle domande degli immigrati e degli italiani. Ma perché voi italiani chiamate noi di colore se noi siamo neri? Ma appunto, io vi chiamerei negri. Siete negri. Perché i ragazzi italiani si tolgono le sopracciglia? Gli uomini italiani non si depilano le sopracciglia, quelli si chiamano fraci. Perché se il campo da calcio è il posto dove lo facevo meglio io, è più evidente su internet, ragazzi, impera. Cioè, tutti sono capaci di fare tutto. C'è la dittatura. C'è la dittatura, esattamente. E infatti, per parlare di lo facevo meglio io sul web, abbiamo con noi Federica Cacciola. Ciao Federica. Buongiorno, ciao. Allora, in realtà noi ti abbiamo sentita come Martina Dell'Ombra, che è il tuo personaggio, diciamo, top, come dice anche Martina stessa. Federica, la prima cosa che voglio chiederti è, noi abbiamo sentito una serie di cose politicamente scorrette in questo blog, però la gente c'è cascata. Come ti spieghi che la gente abbia creduto a queste cose? Beh, credo che in primo luogo dipenda dal mezzo, ovvero internet, e nel senso che gran parte della popolazione, della gente, pensa che comunque internet sia il posto della verità, e che sia senza filtri e che lì non vengano fatti dei contenuti in qualche modo di intrattenimento. Già se vedi Martina Dell'Ombra dire quelle stesse cose in televisione, pur non cambiando niente niente a livello di come viene presentata quel tipo di cosa, in realtà lo capisci, ma perché c'è una diversa percezione del mezzo. Un po' Martina dell'Ombra è nata anche dall'idea di aver visto una serie di personaggi su YouTube e aver detto: ma questi li faccio meglio io, cioè riesco a essere più reale di loro? No, io questa cosa non ce l'ho, non penso di fare niente meglio di nessun altro, sinceramente. Martina dell'Ombra è nata semplicemente dall'osservazione, anche della gente su YouTube, della gente vera, reale, che incontro per strada, che incontro agli aperitivi, che incontro alle cene, e come queste persone spesso si esprimono con grande superficialità rispetto a dei temi politici o sociali, con delle opinioni così nette, no? Così sicure su tutto, e senza rendersi conto di cosa comporta il loro ragionamento. Io con Martina ho portato questo ragionamento all'estremo in modo da parodizzarlo. Senti Federica, ma tu Martina dell'Ombra la disprezzi o le vuoi bene? No, io le voglio bene. Io credo che sostanzialmente Martina non abbia poi così tante colpe nell'essere com'è. Perché? È sempre... perché è un frutto della società. Però... quindi tu non disprezzi la società? No, non è una questione di disprezzarla. Io credo che la società la racconti. La racconto, sì, la racconto ovviamente esasperandola. Senti un attimo, prima abbiamo parlato di follower e io una cosa che mi immagino sempre è che i follower, siccome sono ancora un po', io sono a cavallo tra l'analogico e il digitale. Cioè mi immagino ancora il follower come una persona che cammina per strada e che quindi ti segue, no? Tu hai qualcuno che ti segue per strada? Ce l'ho avuti, sì. Veramente? Sì, c'è qualcuno, diciamo che ci sono dei follower che mi seguono su internet, che però abitano non tanto distante da me, quindi ogni volta comunque che mi incontrano un po' mi seguono perché vogliono parlare. Adesso ne avrai uno in più, probabilmente Beppe Salmetti te lo troverai fuori dal portone di casa. Mi sa che c'ho anche il numero, quindi. No, piano piano. Ma ascolta, Martina dell'Ombra o Federica Cacciola vorrebbero fare politica? No, io non sono interessata alla politica perché... diciamo non è una cosa che fare zero. Politica è comunque molto difficile indipendentemente da tutta la satira che si possa fare, che io ho sempre fatto, e quindi in realtà se fai questo lavoro vai proprio a notare le criticità, però anche perché è una cosa molto difficile, io non la voglio fare se non come già la faccio, cioè facendo satira, perché poi fare satira sociale è sempre anche esprimersi politicamente, quindi già lo faccio e ti basta quello così. Beh, certo, perché comunque il mio modo di comunicare è questo. Sai che forse se Martina dell'Ombra si candidasse la gente le crederebbe? Sì, a voglia. Sì, secondo me anche qualche parlamentare politico di qualche partito ti direbbe: ah, bella idea, vieni con noi, certo, sì, mettiamo la tua faccia. La gente ha creduto a Di Maio, non capisco perché non credo credere a Martina dell'Ombra. Questo ottimo. Questo direi ci sta. Con questo ci hai fatto fare il pezzo, grazie. Esatto, grazie mille. Ascolta, allora la domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti e che conclude l'intervista, tu te la senti di dire lo facevo meglio io? No. No, tu non sei una di quelle. Oh, ragazzi, mi sa che abbiamo trovato una delle poche italiane che dice non lo fa meglio di altri. E pensi che in Italia sia invece diffusa la frase beh, lo facevo meglio io questo? Beh, molto, sembra molto facile mettersi al posto di chi in realtà fa le cose. Io in realtà stimo molto di più chi fa che chi critica. Bene, grazie mille Federica. Grazie Federica. Grazie mille. Federica. Ciao. Ciao, ci sentiamo presto. Ciao. Ma tu lascia stare. Ma verrai. Magari. Sei uno stolico. Che ne sai di cosa può succedere? Ciao. Ciao. Beppino, ci sono di sempre. Ma ragazzi, scusa. Tra l'altro, chi ce l'ha il numero? Chi me lo passi? Ce l'ho io, ma il cellulare, guarda, appena vedo le tue mani che si allungano. Magari lei vorrebbe. Sì. Scusate, magari lei è lì che dice: ah, speriamo che poi mi richiami. Ma basta. Devo ribadire, si chiama stalking questo. Vabbè, è un reato. È un reato. Comunque, un po' mi viene in mente quello che diceva mia nonna, sentendo Federica, che diceva: chi sa fa, chi non sa insegna. Bellissima, che è una massima, è un luogo comune, mica tanto. Lo diceva anche mio zio. E ci aggiungeva tutta una serie di cose: tipo chi non sa insegnare regolamenta, chi non sa regolamentare amministra, e poi alla fine arrivava diceva, chi non sa fare questo cos'è è un politico, quindi non sa fare nulla. Stai dicendo esatto. Che i politici non sanno fare niente? No, Alessandro, non lo sto dicendo io. Zio? Ripeto, questo è il programma dei luoghi comuni, questi sono i vox populi. Ci toccherà una puntata, ragazzi, su luoghi comuni, sarà pericolosissima, poi chiuderemo il giorno dopo. Assolutamente sì, mi sa che veramente qua arriva la direzione, fa sran, giù la serranda. Sì, però ragazzi, cioè per parlare di lo facevo meglio io qua, sì, bisogna scomodare fare l'arte, cioè non possiamo, eccoci. Sì, non possiamo star qua al nocciolo, capito? Cioè lo facciamo meglio questione. Io l'arte, cioè, capito? La classica scena, sono davanti a un quadro, lo guardo, no, soprattutto quella roba lì la facevo anch'io. Falla a te, perché non l'hai fatta a te? Cioè, questa è la grande domanda, effettivamente. No? Ce la potevi fare. Allora, siamo con, vediamo se la dico se giusta. Se ce la fai giusta, eh? Posso dire, Max Papeschi, che tu sei un artista molto quotato? Puoi dirlo, dai. Così facciamo anche un po' di pubblicità. Ciao ragazzi. Ciao Max. Benvenuto. Ciao. Benvenuto Off Topic. Max Papeschi, che artista è? Io faccio finta di essere un po' un profano. È un artista che prende delle immagini dal mondo contemporaneo. Sì. Correggimi se sbaglio, ti ripeto, sono profano. Delle icone? Delle icone. Dei, ci siamo. Dei simboli. Quindi immaginate, adesso dico il simbolo più forte che c'è nelle sue opere, che è la svastica. Però c'è anche la stella di Davide, eccetera, eccetera. Il simbolo del McDonald's. E immagini o religiose o popolari. Sandra Raimondo, oppure la Vergine Maria, eccetera, eccetera. O Kim Jong-un. O Kim Jong-un, mischiati insieme con un collage fotografico. Esatto. Questo è tutto, quello. Tutto giustissimo. Perfetto. Allora, critico d'arte Alessandro Longoni. È chiaro, è diventato il nuovo Sgarbi. È chiaro che un fruitore che ti vede su una rivista o su internet, eccetera, dice: vabbè, ma questo qua ha preso la Madonna, gli ha messo una svastica sotto il razzo, sto sparando, e lo facevo pure io. Di fronte a una critica. C'ha ragione. C'ha ragione. E tu sei anche contento che ti dicano così. È questo che voglio capire. No, beh, non è che sono contento, però mi, cioè, fa ridere perché effettivamente è vero, nel senso che tecnicamente sarebbe possibile. Ti faccio un esempio che secondo me potrebbe essere calzante. Quando tu anche scrivere un libro, no? Sì. Nel senso, le parole sono sempre le stesse. Sì. La macchina da scrivere, che poi è la tastiera del computer, sì, è la stessa, le lettere sono le stesse. Si diceva anche che se tu metti mille scimmie per mille anni a battere sulla tastiera, prima o poi una ti scriverà l'Amleto di Shakespeare. Certo, questo è chiaro. Cioè, okay. Sì, in realtà è vero, è fattibile, non sarebbe, poi però non succede, ecco, secondo me è quello un po' lo ecco, esatto, qual è il punto, che è la magia la magia dove sta, qual è la distinzione? Quando è che succede? Non lo so, questo non te lo so dire. È la magia. Però a te, cioè, non puoi dircelo perché però, poi esatto, perdi lavoro. Però a te è successo. No, cioè è arrivato a un certo punto in cui ha fatto click il cervello e ha detto: vabbè, proviamo a buttarci su Photoshop, che poi è il tuo grande mondo. Ecco, io ho una domanda per te. Ma tu sai dipingere con le tempere, l'olio, cioè le basi del disegno? No. Assolutamente no. Bellissima questa cosa. Sa neanche disegnare. Fantastico. E cosa sai fare? Come no? Cosa sai fare? No, non lo so, pochissimo. Però lo sai fare molto bene. Quel poco che sai fare lo fai bene. Io lo faccio benissimo. Guarda, ti propongo una grande provocazione. A questo punto molla Photoshop e buttati su Paint. Ma no, ma Paint è la svolta. Con Paint è la svolta, perché io vedo tanti meme su internet. Allora ogni tanto mi viene un'idea per fare un meme, solo che io non ho il software che fa i meme fatti bene con la scritta Hai in Paint. Bianco. Allora quando mi viene in mente un meme lo faccio con Paint, solo che con Paint è un disastro perché poi mi sballa spagina tutti i valori, tutto, sì, spagina sì. Tutto, scrivo con i Comic Sans. Voi state parlando a Max Papeschi di Paint. Ma guarda che te ridi, ma secondo me sta prendendo appunti, perché se m'ha preso il Gesù che vola con un razzo. Quando metto giù vado a vedere cos'è Paint. Ma come cos'è? No, aspetta, fermi allora, tutto. È un software, no, vai. Perché su Paint io faccio una guerra civile. No, allora, vabbè, piano. Adesso guerra civile. Cioè, allora, Windows 3.1, no, tu di che anno sei? Sei del 70, quindi i computer negli anni 90 li hai riconosciuti. E uno dei software base di Windows, anche Windows 95, era Paint. Ho capito, guarda, quello per disegnare, quello per colorare. Che usi il mouse per disegnare. Io da piccolo lo usavo per disegnare i dinosauri. Ho capito, guarda. Poi ve lo mando. Bisogna svoltare con i dinosauri di Longoni. La mostra i dinosauri. Sì, guarda che potrei anche recuperarlo. C'ho un floppy disk con questo disegno. Un floppy disk? Un floppy disk. Floppy disk. Che non so. Si stava meglio quando si stava peggio. Con i disegni proprio. Con il dinosauro. No, e quest'anno però è uscita una notizia drammatica, sì, che mi ha messo in panico. Tolgono Paint. Che esatto. Che no. La prossima versione di Windows. Forse è già attivo. Io, figurati. No, sì. Non sono. Anche il floppy disk. Sì, vabbè, floppy disk. Ormai i floppy disk sono illegali perché trasmettono malattie, cioè, ascolta Max, tornando alle tue opere e a quello che fai, tu praticamente dissacri tutto: religione, politica, buon costume, buon gusto anche in alcune anche opere. Madre, scusami se lo tiro fuori, ma ho trovato questo articolo. Cioè, come ti è venuta l'idea di vendere tua madre? Come vendere tua madre? Una battuta a cena a tavola con il Gorzanti, che è stato poi il curatore della mostra, con cui lavoravo. Non mi ricordo in che contesto mi fa: no vabbè, ma stai zitto che ti venderesti anche tua madre per uscire un'altra volta su tutti i giornali del mondo. E tu hai messo all'asta tua madre? E cazzo, ci siamo guardati, ci siamo guardati e lui ha detto: cazzo, ma sai che ho un'idea, potremmo davvero provare a vendere mia madre. No, vabbè. E come è finita? Non riusciamo a uscire di nuovo su tutti i giornali. E così è andata. E come è finita? L'hai venduta poi? Sta finita? Bene tua madre ora? Esatto. Nella sua nuova sta famiglia? Sta bene. No, in realtà è a Milano. È stata comprata sulla carta, poi in realtà okay. Senti, allora noi dobbiamo chiudere con te e ti chiediamo quello che chiediamo a tutti. Aspetta, no, Max. Dobbiamo chiederti l'ultima cosa. L'ultima cosa. Che è fondamentale. Lo facevo meglio io, quindi sì o no? Sì, in teoria, no, in pratica. Così. Cioè, si scontra con una. Si scontra col fatto che se fossi in grado di farlo, l'avresti fatto, invece no, e poi aspetti che l'abbia fatto io per dire che l'avrei fatto anch'io. Chiaro. Cioè, diventa ovvio nel momento che te lo fa vedere qualcun altro. Prima è nel mondo delle idee, certo. A te non è venuto in mente. Chiaro. Infatti, ottimo, grazie mille, Max. Grazie mille. Ragazzi. Ciao. Comunque ragazzi, Max Papesse non solo non sapeva disegnare, non sa disegnare, non sa neanche usare i due colori a tempera, sì, olio, esatto. Quello che è, non sa manco cos'è paint. Senti, ma quanto me lo vendi un dinosauro, Longoni? A quanto me lo vendi? Stai fermo lì perché adesso me l'hai messo in testa, mi è venuto in mente, adesso lo voglio cercare, quel floppy disk. Ti prego, vendiamolo sulla pagina di Off Topic. Sì, il problema è che devo trovare un computer ancora che prenda i floppy disk. Questo è un dramma, effettivamente. Forse qui a Radio 24 ci sono ancora. Ma come? Siamo ancora old school noi. Ragazzi, però allora scusate, ho provato a fare un sondaggio. No, non no, so. Sondaggio, no. Scusate, non ce l'ho fatta, non ho esistito. Non so come. Esatto. Il sondaggio di Salmetti. Allora, non so come è andato. Ragazzi, ho avuto un'idea. Una volta una, tanto viene che una viene all'anno. Sentiamo. Ho fatto un sondaggio, ho chiamato così. Beh, ascoltatelo, ditemi cosa ne pensate, insomma, dai. Vai. Ecco, già la musica. Aspetta. Mamma mia, aspetta. Museo del Novecento. Buongiorno, la chiamo perché la settimana scorsa sono stato a vedere la mostra lì. Sì. E ho visto insomma un po' di quadri, un po' di opere e, però mi volevo un po' lamentare con la direzione comunque, perché alcune opere secondo me erano un po' messe lì così, no? Un po'. Il museo del Novecento a Milano. Vabbè, allora deve mandare, può fare o mandare una mail. E no, c'è capito, però allora uno si improvvisa artista, fa due colpi di ferro così. No, butta... ma è inutile che lo dici a me. Non, io sono qua, sono in biglietteria. Chiamate me la prossima volta. Ah, vabbè, no. Lei chiami, mandi una mail dando il suo nome. Doveva chiamare. Cioè, lei farebbe, glielo giuro, lei farebbe delle opere migliori, secondo me. Cosa fa lei nella vita? No, beh, io faccio il bigliettaio. Cioè, ma lei non ha mai fatto un'opera d'arte a casa? Un'opera d'arte a casa? No. Ma non le piacerebbe farla? Ma lei, no, ma scusi, ma adesso visto che ci stiamo chiedendo. Certo. Ma lei cos'è? Un allestitore? Fa esatto. Di mestiere l'allestitore? Perché mi sembra che sia abbastanza del ramo. No, io faccio salumiere, però sono venuto lì con degli amici. Vedere questo taglio nella tela così messo. Cioè, no, mi sta lamentando di un fontana, del taglio nella tela? No, quella roba lì, sì, boh. Io non. Cioè, boh. Mi scusi se rido, però. Guardi che fontana sono dei quadri, cioè, a livello internazionale molto valutati. Sì, però lo faceva anche lei sto taglio. Cioè, adesso lei mi vuol dire che con un coltello in mano, una tela davanti, non fa anche lei quel taglio di così. Senta, la devo salutare perché adesso ho gente. Per carità. Sì, comunque, no, va bene. Scriva perché è interessante il suo punto di vista. Va bene. Grazie. Buona giornata. Ti tratta come un matto. È interessante, però ti dava retta. Hai capito? Sì. Certo. Sì, cioè, a un certo punto ho detto: questo è veramente matto. È un esperto del settore. Magari è un artista, capito? No, ma richiamiamolo subito. Magari mi ha preso per un artista. Secondo me vince il premio Off Topic lui. Ma sì, quest'anno. Ma allora non ti ha buttato giù il telefono, non ha chiamato i carabinieri, non ti ha mandato a quel paese. Oddio, magari lui i carabinieri poi li ha chiamati e adesso arriverà una querela. Perché ricordiamo, tu hai chiamato il museo del Novecento lamentandoti del Fontana. Sì, che tra l'altro, scusatemi, ora lo posso dire: è bellissimo. Sono delle opere bellissime. Sì, perché se ti vedono. Sparo a distanza. Però hai fatto tutto quello che farebbero tutti i nostri ascoltatori, ovvero sette persone in questo momento. Sì, arrivare lì e faremo quella roba lì. Ma chi è che l'ha pesa? Vabbè, un fontana. Io non ho mica capito perché ho tutto sto successo. Che poi è bello. Vabbè, poi apriamo e chiudiamo perché non siamo degli esperti d'arte. È che c'è ovviamente un percorso che porta a fare questi tipi di opere. Sì, non è che Manzoni si è alzato una mattina cagato in una scassata. Per dirla in maniera semplice. Il bagno semplice. Non c'era. Cosa faccio? Allora, ragazzi, facciamo un po' un recap. Riprendiamo un po'. le file del Alessandro. Discorso. Abbiamo avuto Federica Cacciola, sì, alias Martina dell'Ombra, che ci poi chiamerò, un po'. Insomma, basta. Sì, con cui stasera vi ho fatto una bella pizza. Poi abbiamo sentito adesso Max Papeschi, sì, che mi ha bloccato la testa. Che dice che è vero che lo si può fare meglio, eh? Cioè lui fa una cosa che possono fare in tanti altri, però l'ha avuto lui per primo l'idea. Esattamente, quindi io direi di chiudere con un giudice, che è uno scrittore, che è un po' un osservatore della nostra anche società, fa spettacoli teatrali, scrive libri, fa editoriali, è sempre presente in televisione. Lavora sugli autobus. Come è ripartito sembrava possiamo dirlo, fa tutto lui. Fa tutto. Lo possiamo dire, è con noi Andrea Scanzi. Ciao Andrea. Grazie, buongiorno. Ciao Andrea. Allora, senti, con te si può cominciare a parlare di tante cose, perché tu sei innanzitutto un giornalista e hai cominciato, se non sbaglio, a scrivere di musica e quindi a fare il critico musicale. Ho cominciato così, una recensione dei Verve nel 97 per il Mucchio Selvaggio. Mamma mia. Ecco, allora, uno, il motivo per cui ti abbiamo chiamato, ma tra i tanti, perché insomma sei un osservatore a 360 gradi, è il fatto che tu, non so se la fai ancora quest'opera, ma è Gaber se fosse Gaber. Certo che la faccio, assolutamente. È ancora a teatro, insomma, in scena. Allora, dato che questa è la puntata del Lo facevo meglio io, ti chiedo, come si fa a mettersi a fare Gaber? Cioè, a toccare un territorio così? Cioè, minato, direi. È un mostro sacro. Non si fa, nel senso che io non è che interpreto Gaber. Certo. C'è chi l'ha saputo fare, per esempio Giulio Casale, anche Neri Marco Re. Ma io, come dico nello spettacolo, mi limito a raccontarlo. Faccio tanti passi indietro e faccio il divulgatore, il narratore e il raccontatore di un percorso molto particolare, molto spinoso, che va dalla canzone al teatro canzone. Quindi faccio un centinaio di passi indietro. C'è il grande schermo con Giorgio Gaber e io sono una sorta di un narratore. Un fenomeno assoluto. Spesso l'italiano medio, quando vede qualcosa, dice: beh, io questo lo faccio meglio. È vero o no che l'italiano medio ha questa tendenza? È verissimo ed è vero soprattutto in alcuni campi. Nel calcio sono tutti più bravi degli allenatori, nella politica sono tutti più bravi dei politici e nei giornalisti sono tutti più bravi dei giornalisti. Ti vedono al bar, ti dicono: però se c'ero io in televisione a quello lì gliel'avrei dette 4. Poi magari sarebbe andato in TV e avrebbe fatto scena muta, perché dire in faccia a un politico quello che pensi non è così scontato. Senti, ma Andrea, scusami, questa cosa secondo te accade perché noi italiani siamo un popolo di invidiosi, rancorosi? Da dove viene questa cosa qua? Da dove nasce? Beh, un po' perché siamo dei chiacchieroni, dei fanfaroni, siamo proprio fatti così, fatalmente cerchiamo di mettere bocca su tutto. Un po' perché, come diceva De André, quando non puoi più dare il cattivo esempio ti metti a dispensare dei consigli come se fossi diventato un grande scienziato. E un po' perché secondo me i social hanno sdoganato quella che era una tendenza che magari rimaneva veicolata unicamente nel bar di provincia. Se nel bar di provincia arrivava il fanfarone che ti spiegava tutto e diceva di saper fare qualsiasi cosa, tu gli offrivi una birra e dicevi: vabbè, dai, adesso siediti, non mi rompere le scatole. Leggerlo adesso su Twitter o su Facebook crea una forza mediatica superiore, però in realtà eravamo così anche 50 anni fa. Ma ascolta, sul fatto che internet ha permesso una democratizzazione non solo del linguaggio ma anche del pensiero, cioè ormai sono tutti professori, i casi di Burioni sui vaccini e così via, tu come la vedi? Cioè, nel senso, secondo te è un buon strumento internet per creare una democrazia oppure no? Lo devi saper usare, ci sono degli aspetti molto positivi, per esempio legati all'informazione. Grazie a internet abbiamo scoperto notizie che magari il TG1 o Canale 5 non ci avrebbero dato. Al tempo stesso la cosiddetta disintermediazione fa sì che chiunque si improvvisi giornalista, professore, solone. Io mi metto nei panni di un adolescente che non sa discernere colui che sa e colui che non sa, e allora diventa molto molto pericoloso. Forse proprio questo ha amplificato Lo facevo meglio io, cioè è diventato esponenziale questa cosa anche grazie a internet. Senza alcun dubbio, e per un nativo digitale diventa normale pensare questo lo facevo meglio io, perché si sente in diritto di mettere bocca su tutto e crede che qualsiasi suo parere sia equiparabile a quello di un ministro, di un giornalista o di uno scienziato. Senti Andrea, secondo te i luoghi comuni sono un'opportunità o un ostacolo? Questa è la Marzullo, però devo dire. Questa è un po' marzulliana. Fatemi marzullare un po'. Ok, va bene. Dipende che luogo comune mi citi. In linea di massima credo che siano un ostacolo, però con un fondamento di verità. Se c'è un luogo comune, una piccola briciola di verità c'è. Quindi i toscani sono simpatici? O hanno inventato la lingua italiana? Che hanno inventato la lingua italiana credo sia abbastanza vero. Esatto. Che siano simpatici, diciamo, valeva fino a quando c'erano i Nuti, Benvenuti, i Benigni, che avevano 20-30 anni. L'ultima nidiata di toscani famosi, compreso il sottoscritto, non è esattamente simpaticissimo. Okay. Abbiamo avuto delle fasi più alte, più belle. Tra l'altro mi ha colpito sul tuo sito, nella tua biografia, che a un certo punto scrivi: ho un ego che fa provincia. E mi sono messo a ridere. Ma sai, è reale quando... autoironia o ci stai perculando anche è qui? È autoironia, però un po' di verità c'è. Quando tu fai giornalista, vai in televisione, fai teatro, sei convinto che ogni tuo parere sia interessante e addirittura c'è un pubblico che ti legge, ti guarda e ti paga per vederti, un po' di ego ce lo un deve po' ci avere, credi, forza, certo. Altrimenti crolli. Meno male che c'era un po' di ego, altrimenti salirei sul palcoscenico e scapperei di fronte a 500 persone. Certo, senti, certo. Andrea, visto che abbiamo rotto un po' il ghiaccio, voglio farti una domanda un po' matta. Tu di giorno litighi anche, ti capita, a me capita tantissimo, ma a te capita di litigare un po' con te stesso nella anche. Mente di Salmetti. Salmetti è incredibile. Io litigo tantissimo con me. Tu stai male. Tantissimo, litigo continuamente con me stesso e non sono quasi mai d'accordo con me stesso. Anche quando mi rivedo in televisione spesso dico: ma che cazzo ho detto quella volta? Ah, perché tu sei uno di quelli che si rivede in TV, cioè, poco ah, okay. Però mi capita per disgrazia. Alessandro, siamo arrivati quindi alla domanda finale. Beh sì, a questo punto ti chiediamo, lo facevi meglio tu? Lo fai meglio tu? Ma tutto sommato sì, in alcuni casi sì, ecco. Quando racconto a teatro, quando scrivo per esempio di musica dei Pink Floyd, lo faccio meglio io. Quindi anche questa intervista forse? Questa intervista diciamo che l'ho fatta benino, dai, siete stati molto più bravi voi di me. Ah, beh, ragazzi, ce la portiamo pensavo, a casa questa. Pensavo ci stroncasse. Infatti la domanda successiva è: ti saresti fatto l'intervista da solo? E invece no, va no, bene, no. La portiamo a casa, punto e stop. Grazie. Grazie Andrea Scanzi, grazie mille di essere stato qui. Ciao Andrea. Ciao. Italiani chiacchieroni e fanfaroni, signore. Andrea Scanzi dice che questo luogo comune è vero, quindi off topic. Hai vinto, e anche oggi hai vinto. Ragazzi, però c'è un grande momento che voi due aspettavate. Signore e signori, sì, oggi c'è il quizzettone. Oh, facciamo un po' di quizzettone. Sì, Riccardo, apriamo al gioco. C'è anche oggi c'è il quizzettone, siamo tutti d'accordo contro. Sì, io sono d'accordissimo. Okay. Vai, allora, stanno per partire dei trailer di film e voi dovete indovinare che film sono. Che bello, bellissimo. Ma cosa avete preso? Non lo so, bellissimo. Sì. È tutto a posto. Sta accadendo di nuovo. Potrebbero esserci danni rilevanti alla vita. Godzilla. No. Lungo la costa. Tempesta. È una tempesta. La tempesta perfetta. No. Armageddon. Non li beccherete mai, ragazzi. Deep Impact. Da quando ci sono gli squali a Manhattan? Siamo in trappola. Armageddon. Lo facevo meglio io, ragazzi. Se i predatori sono arrivati a terra, niente potrà più fermarli. Mi serve una motosega. Aspetta, volano dall'alto. Transformer. Ah, certo, Sharknado. Grande. Sì, grandissimo. Però il 2. Ma perché ho preso il 2? Vai con l'altro. Mi sto divertendo. Facciamo mezz'ora così. Dai. 2000 anni fa. Sì. Un vulcano distrusse una civiltà. Oggi. Cosa? Pompei. Ma come fai a fare andare così? Fai? Ma ragazzi, ma vabbè, un vulcano Apocalypse distrusse... Pompei. Ma tu sei il numero Apocalypse. Cioè, lo conoscete tu e il regista che l'ha fatto, probabilmente. Ma cos'è? Come fai? Vai, ancora. Siamo andati alla ricerca. Vai col terzo. Terzo. Ragazzi, è incredibile. La Terra sta per entrare in collisione con un asteroide. Avanti. Armageddon. Anderson è di far detonare delle esplosioni nucleari nella fossa Young. Questo provocherà dei terremoti sufficienti a spostare la Terra dalla traiettoria dell'asteroide. Ma che cosa? Esatto. Ma che idea del tempo? Cos'è? L'ha chiesto anche lei. Ma è proprio un'idea della. Un piccolo frammento spazierà via Hong Kong fra 15 ore. Hong Kong? Chi? Capito? Questo è. Qui c'è Armageddon. No. Siamo lì. È un B-movie questo. Ovvio, sono tutti B-movie. E devastanti non mi viene in mente. No, vabbè, dai. Era Asteroid versus Art. Comunque, però, Asteroid versus Art. Allora, me li ha proposti Andrea Roccabella, che saluto. Il nostro regista. Porto dei B-movie che sicuramente no? No, aspettate un attimo. Asteroid versus Art. Verso Earth si sumette. Scusa, pensavo contro l'art. Scusa la pronuncia. Beh, effettivamente, se consideriamo il cinema arte, questa roba qua è effettivamente un Armageddon. Sai cosa mancava? L'arte. Mancavano le tarantole che sputano lava. Ce l'avevi, Andre, quello? No, non l'ho preso. Bello. No, complimenti, passate dei bellissimi pomeriggi voi due. Comunque, basta perché lo facevamo meglio noi. Effettivamente sì. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Off Topic. Se volete scriverci offtopic@radio24.it oppure la nostra pagina Facebook offtopic-radio24. Quando è che ci sentiamo noi? Alla non prossima, lo so, alla prossima direi. State con noi. State con noi su Radio 24. Ciao! Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.